Hola, hola, hola, hola, hola. Chi è, papà? Babbo Natale. Hai sentito, Babbo Natale? Sì, ma c'è in ritardo, però. Vabbè, sono Babbo Natale tutto l'anno. Ah, così è. Ascolta già, che ho sto usando il dati col tarne più 3, com'è? Bella? Sì, bella, bella. Una bella modulazione. Si assomiglia a quella di Garcia, tanto, mi pare sia uguale il radio. L'ho accesa un po', ce l'ho tutto il giorno accesa, capisci che la facciamo andare. Aspetta che rispondo al telefono. Fai. Ehi, Gianni. Doppio. Vai, può comare. Si tratta di una rifugia. Oh, tru tru, Natali, non mi dite più, no. Mi stavate chiamando? No, sei sicuro? Ho sentito voce di Cuocuomane. Natalino gira in macchina. Ah, ecco perché ho sentito voce di Cuocuomane. Allora c'è Natalino. Hai capito, bello becca, eh? Dove sei? Dove sei, Tatali? Guida, allora, stai attento a non investire qualche pedone. È bello. Mica, sto provando, giusto per curiosità, una con la capsula là che ti ho fatto vedere stamattina. Allora, blu. Così, io lo voglio chiudere sul capo di microfono, capito? Si trova una perra. E si rapida, andiamo con te possiamo. Ma adesso cosa stai usando? L'SM20. Ah, quindi questa volta è bella pimpante. Mi ha staccato il saldatore adesso. Sto togliendo le due vitine laterali dell'SBE, così da vedere un po', capite? Voglio provare per curiosità quest'altro tipo di capsula. Aspetta, dammi un minuto che lo attacco pure. Fai, stai attento a non graffiarlo col microfono, già sono qua. Attento, doppio. Ok, aspetta che cambio microfono, aspetta. Cambia. No, sei tutto distorto. Sì, ma è bruttissima. Figuriamoci allora se attacco qualcosa, aspetta. E cos'è col compressore? Cazzo, il compressore è un'altra guba. Si sente un fruscio, però è molto forte. E il fruscio è come la ventola della radio, che aumenta di velocità, già offside. Così. Quello non ci posso fare niente. Però posso abbassare un mic gain. Così a 2 però. È bella così col compressore attaccato questa. A 2? Ma che gain, lo lascio a 2 allora? Si sente solo la ventolina, nessun rumore. Bella la modulazione, non è brutta? Sono riuscito a recuperarne 2 di quelle capsule qua. 2 solamente, se vedi una, sì, 2. Perché le altre sono quel modello che ho provato ieri. Perché c'erano 2 coordinate differenti, infatti quando la gente si agita, balla in ogni capsula è diversa. Proviamo anche questa. Questa non è male, a chi piace, bella forte, tonalità anche abbastanza acute. Mettilo a 3 il microfono. Allora, aspetta che così a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, troppo alto. Lo devi mettere a 3. Allora, così a 4 e così a 3. Ecco, allora, lo lascio così, ok. A quanto ci stai parlando dal microfono? 40 centimetri, perché No, no, lo devi mettere in piedi e parlarci a 10 cm e vedrai che esci ancora meglio. Perché? Ti si innescendi a volte. Perché stavo toccando la capsula. Perché devo sistemarlo tutto, l'ho aperto anche sotto, capito? Non vorrei che tutto vada a fare contatto da qualche parte. Adesso diciamo che è in piedi, sono 20 centimetri, perché... Lo devi chiudere, lui. Lo devi chiudere, se no c'è tutto un innesco, tutto un casino. Innescando sta adesso? No, adesso no. Perché tocca la massa, aspetta. Come è stato la cazzo la innesca? Volevo chiudere tutto. Aspetta. Però questa... Ti mando la foto, non sta male, che bisogna trovare un coperchio adatto. Perché non ci sta dentro le cimie e poi le metti il tappo suo, non chiude? No. È grande come quella là, rimane all'esterno. Adesso ti mando la foto, aspetta. Sa puttana, droga. È un bel casino, Deve chiuderlo, cazzo. Perché se lo chiudi sicuramente funziona anche meglio. Ti mando la foto. Chi c'è qua in questo canale? Io e Luca. È troppo grande, peccato, cazzo. Beh. Chi sei parla? Con Luca. No, lo senti, ciao Luca, ciao Carlo. Non lo sentivo, poi se pensavo che è qualcuno di fuori. Ciao. Ecco che appare che stai uscendo. Mi serve di quelli della NASA. Mamma mia, che radio qui. Scusa se te lo dico, ma sembri della NASA. Quelli che parlano sugli aerei, che ti dicono la porta d'uscita è quella, a destra, eccetera, eccetera. Quelli che sei. È mancato poco fa, stavi uscendo bene, non c'è venti di chi è. Stai fischiando, qui nella radio è quasi incomprensibile, e ti sei passata. Però poco fa ha fatto un passaggio, era perfetta. No, adesso stai facendo male. Poco fa andava bene, quando era collegato il microfono, già ne c'ho qui. Aspetta, perché collegare? Non so come era prima, non più nemmeno. No, è male, non già, forse perché tu sei vicino. Senza il processore, se un po' metti che una cosa. No, senza il processore sei tutto impaccato, devi lasciare il processore attaccato. Sì, già ne avessi arrivata gente. No, non è arrivato nessuno, sono qua. Io. Va bene. Dopo fammi sentire qualcosa, già lo sai. Servi! Ah? Io, va bene. Cappa. Ma cosa tra me e te? E boh. Va bene, Lu, non so cosa dirti, devi tenere il compressore inserito e il tuo microfono deve venire cuccato. Provami con Gianni a vedere, lascialo a 3, a 2, col compressore inserito, fa stavi andando bene. Così a 3, compressore inserito. A quale distanza stai parlando? Solo di prima, perché l'ho caricato il microfono. Se la cazzo è girata sotto sopra, adesso è girata in posizione giusta. Posso dire, però era così prima, non è che andava bene. L'ho fatto, andando bene, già vuoi ti dica. Allora sei tutto paperinando. Non so cosa c'hanno con le capsule, cosa vuoi ti dica. Io te le ho fatte vedere quelle capsule, se le vuoi te le do, non è un problema, io non me ne voglio nulla. I microfoni ce li ho tutti nuovi, no? Li ho comprati tutti nuovi, ne ho due solo, uno che mi ha fatto Gianni e l'altro che avevo comprato a Gigi Vulcano, vecchio per modo di dire, cioè usati. Gli altri li ho comprati tutti nuovi. Ora si è cambiato qualcosa. Sì, ma per me lontananza può anche andare, è un pochino cupa, ma è abbastanza comprensibile. Con quelli vicino non lo so se ti ascoltano bene. Mi ho messo un coperchio, un tappo sopra, per fare meno paperino. Gianni, come lo senti a Luca? Ma aspetta. A proposito, già, il legale è tutto a posto, sta andando sempre bene. Sì. E questo qua che stai usando adesso? Sì, ho cambiato i capi, gli ho rifatto i capi, il Regi 50 è nuovo e piedi tu. Hai visto? Che la matematica non è un'opinione. Ascolta, Franco California ti ha chiamato. Sì, ma quel capo lì a me non piace, è di quello grigio, non mi piace. No, io voglio l'H1000 se... Aspetta che mi stanno chiamando al telefono. Già la Camilla è grosso quanto è il 213, chissà che sia fine. Prova l'H155, allora, capito? Prova l'H155. No, non so cosa dirti, boh, non so. Così sto peggiorando qua, sta aumentando l'amplificazione. Qua, wow, io ti registro, per me va bene, guarda, aspetta. Ti dico, quando parlare così è come sia adesso, non toccare niente, aspetta. Così sì. E immagini, gliel'ho detto io, di prendersi l'H155 l'Oblox, che è quello che uso io per fare le antenne, di lasciare perdere l'altro grigio. Vabbè, sicuramente si prenderà l'H55. Parla Luca, ti registro così. Sì, provo una da 3, Mike Gain a 6, lui un po' capsula chiusa. E vediamo un po' come esce questa volta. E se non ci rimetto quella che c'era prima, quella piccolina e ci dobbiamo mettere l'armadio. Guarda, te l'ho mandato, per me, ti ripeto, non è il massimo, ma comunque abbastanza buona qua, non so cosa dirti, ascoltati. Allora il sottofondo si sente qua. È quello che si sente, se no la modulazione diciamo che non è male, dai. Adesso si sente il sottofondo così? No, adesso no. C'è sta compressore, e mai che non si. Ma è tipo satura mia, una cosa del genere. Tipo satura, che strano. Allora, proviamo a 3, ma così mi sa che non c'è radio. C'hai come un microfono normale, stai uscendo, più o meno. 4, 5, 6, 7, a 9 adesso è. Un microfono normale, Luca, né più né meno. Senza compressore. Solo il compressore si sente meno vento. Lo so, però è una decisione. Io te l'ho mandata la registrazione, può essere anche buona, però. Così a 2 senza col processore inserito. Anche a 2 va bene col compressore inserito, non è male. Purtroppo perché c'è questa cavolo di vento, che capito. Cioè non si può subire il microfono a 2 metri dalla radio. Non so, prova a parlare così a 2, così fai una comparazione da prima adesso, prova a parlare. Cioè, potrei fare, l'unica cosa che si può fare è mettere il cavo a frontalino e la radio metterla da tutt'altra parte. Allora sì, tanto io il supporto per il frontalino ce l'ho, solo che non c'ho il cavo per la connessione, capito? Adesso sta andando meglio, Luca, cosa gli hai fatto? Abbassato il mettini a 2, già. Sì, a 2. Prima era a 3, così. A 3, adesso a 3, però si sente molto la ventola. Ma adesso è questione di ventola. Si sentivano fischi e poi, dopo che si è eliminato i fischi, si sentiva la modulazione tipo citofonica, così. Ma vabbè, però. Perché stavo provando delle cazzo di citofoni. Adesso l'ho coperta la capsula, guarda, adesso la tolgo, mi tolgo il coperto che gli ho fatto. Adesso mi tolgo libera, sicuramente c'è la tapperina però. Sì, è quella lì e poi fischia pure oltretutto quando la tolgo. Ah, così fischiando sta. Allora bisogna mettere il cosacco. Deve essere comprovato se c'è un freddo. Guarda, adesso c'è il coppo che è bello chiuso. Di seppa. C'è qualcuno qua? Lu, l'hai sentita la registrazione? Aspetta, Perché così a 2 te l'ha detto anche Gianni, non è male. Claudio. Ehi. Come sto uscendo? Benissimo, alla grande. Questo è il Superstar. Col microfono normale? No. Provo a aumentarlo a vedere. Appena appena, Natali, c'è bisogno di prova. Guarda, l'ho aumentato appena appena. Ah, va bene. Se non vuoi rompere le scatole a nessuno, va benissimo. Se non vuoi rompere le scatole a nessuno, va benissimo. La radio è buona. 5 perfetta. Amplificata? Sì, non tanto, ma va bene. Se poi vuoi sollevare ancora, solleva. Qua così a manetta. Ah, va bene. Non è che amplifica molto, Natalia, però va bene. Più di un microfono normale. Ok, va bene, da. K di rosmetro. Quindi così va bene, da. Alla grande. Ok, sono contento, da. Già va bene, Natalia, va bene. Non ti preoccupare, lascia tutto così. Un attimino che io mi assento, 2 secondi, che mi hanno chiamato in cucina, arrivo subito. K, va bene. Luca. Un attimo, Natalia, sto cambiando di nuovo capsula. Ui, eccomi qua. K di rosmetro. Gava gava. Cos'è, un più 5 o un più 3? Un più 3. Più 3 come questo? Più 3B, quello nero? No, quello grigio è questo. Me l'ha regalato un amico. Ma quello grigio, se non hai Mickey Gay, non spinge. Non spinge, questo è una cannonata, questo è il più 3B, nero, nuovo, nuovo, già spinge, però già uno, a 1,5 ce l'ho, fate il conto, non lo posso tirare di più, se no ti posso sciogliere, però c'è il Mickey Gay la radio, capito, mentre il Superstar non ce l'ha, ed è un casino. Sì che ce l'ha, l'ho alzato adesso il Mickey Gay, che ce l'avevo abbassato. Oh, ma... ripeto, già sta andando bene, ma non è una spinta tanto, e forse sono io che ho la voce troppo bassa adesso. Non lo so, io col Superstar vado molto bene con l'MB più 5, il Tanner va bene, l'ho provato, l'ho messo direttamente qua al Galaxy. La posso provare nell'altro a vedere, magari nell'altro va meglio, boh. Le prove devi fare, Natalie, il radio sono sempre un, come si dice, un esperimento. Il più 3 sul Galaxy va molto meglio rispetto all'MB più 5, però anche l'MB più 5 già si difende bene. E aspetta che provo nell'altro. Guarda, questo è l'altro. Prova, Natalie. Ah, vai, da chi c'è l'altro? Però è basso il microfono, non lo sto mettendo a manetta, no? No, devi sollevarlo, Natalie, e poi ti dico io a quanto devi tenere, e se no lo sollevi io non ti posso dare il controllo. A quanto ce l'hai adesso? Guarda, così a manetta. Vedi, così pompa di più rispetto all'altro. Ah, così è. Eh sì, poi vabbè, dipende anche, ma tu già c'hai una bella modulazione, non lo so, la capsula originale. Io sono uno, mi l'ha regalato un amico mio, la via, che non sta modulando neanche, e quindi me l'ha regalato, te figlio a Dio, ma dica. KK, già va bene, dai. Già va bene, non so, io ti ho sentito con la MB più 5 o più 4, cosa era, non so se è quello che avevi dato a Antonio, però la modulazione sul Superstar è più forte. Provo l'MB più 4 sul Superstar. Prova a vedere. Però sta anche fischiando. Perché c'è la manetta. Cazzo, io vi raggiù, la prima dacca dopo lo 0, sta la più 3, col Galaxy però, ho rimesso la capsula originale, ma originale, quella piccolina qua. Già va bene, il compressore è inserito. Io, però macchina a 2. No, portalo più alto, te lo dico io quando. Allora, così a 6. Mettilo a 7, a 8. 8, 9 e 10. Anche a 10 lo puoi lasciare, non si sente nessun fruscio, la modulazione è un po' più alta di un microfono normale. Beh, perché non c'è alimentazione dal circuito. Essendo una capsula amplificata, giustamente non spinge. Se avesse attivo il circuito con questa capsula mi piace, perché è corposa la modulazione, bella chiara, capito? Peccato, non riesce a comprendere che non funziona il circuito. Ma lascialo così, lo chiudi, lo lasciali con la capsula e Infatti, perché guarda, anche se io ti giro il trim, no, non cambia niente, guarda, 1, 2, 3, prova, ma non c'è nulla. Perché non è alimentata sicuramente. Infatti, ho provato a mettere, la batteria adesso è carica, guarda, così c'è la batteria, non c'è nulla. No, assolutamente, proprio no, non c'è alimentazione col circuitino. Perché vogliono di quelle capsule che siano alimentate, se no non funziona. Questo è il Super Claudio. Con l'MB più 5? Con l'MB più 4. E quanto ce l'hai l'MB più 4? A 5. Mettilo a 7. Te a 7, avanti. Così ha la stessa modulazione del Delta più 3, né più né meno. Gara. Allora il più 3 lo lascio là e qua gli lascio il 4 là. Prova a mettere la manetta al 4. Beh, così a manetta. Appena più alta va bene anche a manetta. Magari a manetta scarsa. Non a 10 pieno, mettilo a 9, va bene. Ottima radio. Gara. Vabbè, comunque mi piace questo. Sono belli tamer. Io l'ho preso per quello, ne ho anche un altro in arrivo, vediamo, ci si distingue, così lo attacco al DAC, capito? Questo l'ho messo sul Galaxy, però ha la stessa connessione del DAC, e a me non mi piace stare attacca e stacca, quindi ogni radio deve avere il suo microfono. E infatti, dai, almeno ce l'ho uno per il Superstar e uno per l'altro. Capito? Andare così, dai, mi si è abbassata la voce, però c'ho anche la voce bassa. No, ma già va bene, non c'è nessun problema. Luca, bene, lo senti a Natalino? Meglio, benissimo. Quello che ho regalato Antonio era quello vecchio che avevo, questo era in scatola, nuovo. Capito? Ehi, bastalo appena. Se ogni tanto c'è un innesco, c'è l'altra radio accesa. No, va bene Natalino, vanno bene tutte e due, non c'è problema. Il mio è che va male, 1, 2, 3 prova, buonasera. Ma chi sei Gianni? Chi è? Giulio? No. Donna Noè, basta. Ciao Giulio. E questo cos'era? Cambi 23? È a Londra. Sì, con l'MB più 4. Io non sono grigliato, io uso sempre questo. Su tutti i baracchini. Che poi ormai non è più. Me ne sono rimasti pochissimi. Cosa pompano questi baracchini senza micchighine, senza nuda? Sembra, se non me lo dici, sembra Valcappa, non è molto alto, a metà. Fortissima la radio giù, fortissima, come il K stai uscendo. La timbre che chissà mi non è venuta dalla vanna. Cosa bompano, io a volte rimango così, attacco per dire il pony con l'MB più 5, non ha mica gay, non ha nuda, esce una canonata, l'Inuit lo stesso. Tutti questi vintage sono una cosa spettacolare. Lascia perdere il Galaxy col Tane più 3, c'è il Mickey Gay, una radio un po' più avanzata, ma quelli vintage proprio sono una canonata. Ciao Giulio, come mi stai ascoltando di radio? Bene Natali, bene, ti sto ascoltando abbastanza bene. Lo so qua, purtroppo è così, non si sa, prima li costruivano bene, era tutta un'altra concezione, avevano i circuiti eccetera. Oggi già lo sai, i circuiti moderni sono un pochino così, vanno bene, un sacco di prestazioni, hanno tutto quello che vuoi, però come modulazione, si sa, i vintage sono sempre i migliori, soprattutto quelli col 4, con i quarti, dai, va bene così. E se aumento, guarda, se io aumento, dimmi se strappa. Adesso ho aumentato ancora un po', 1, 2, 3 prova, adesso ho aumentato ancora, adesso ho aumentato ancora, così uno, due, tre prova, adesso lo sto portando quasi a manetta, ecco adesso è a manetta, com'è? Uno, due, tre prova. Non strappa, Maraggiolti, no, non strappa, non strappa, è che è un bel alta la modulazione, bella acuta, bella tonalità, non c'è niente da fare. No, io ce li ho tutti quarzati, sono tutti a quarzi miei. Tutti quarzati, non c'è niente da fare. È così, poi la KB23 per me è il numero uno di quei baracchini dell'era. Io l'ho avuto, soprattutto quello lì era una canonata. Io addirittura ci avevo ben attoltarne più tre. E ti giuro che a volte non si accorgevano neanche che avevo cambiato il radio, di quanto era proprio precisa, alta e forte, con la tonalità bella acuta tipo il K. Stai andando bene per il controllo? Beh certo, claro, lo so, purtroppo sono così. Io l'avrei voluto provare sul toccai adesso, però T424, ma non ho lo sfilotto adatto. Vabbè, comunque ce l'avevo, poi l'avevo smantellato perché mi era servito in un altro baracchino che poi non ho più. E vabbè, comunque domani lo farò, dai. Domani lo farò, domani mi arrangerò. Avanti l'amico del break che sta riuscendo bene, chi è? Oh vabbè, ci sentiamo domani, ciao ciao. Il radio sta riuscendo bene, di Santiago non è che ti posso dare niente perché ho uno smitter talmente piccolino che poi non so nemmeno quanto possa essere affidabile. Sto usando un baracchino, una KB23 con microfono MBV4, per cui infatti non avrò nemmeno un grande segnale, però mi senti, vedo che mi senti e va bene così, sono contento ugualmente. Comunque tu stai uscendo bene, il radio va benissimo. Avanti ancora Claudio, di Uros. Nessuno si affaccia, ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato, 920 Radio 5 qua, come al solito, sì Giulio, sto usando una KB23 con MB più 5 o più 4 che sia, sta arrivando veramente molto molto bene, anche tu stai arrivando bene, c'era Luca Flipper, vediamo un po' se c'è, No, Luca è andato via, ciao Luca, il nostro lavoratore deve essere impegnato, non hai sentito Claudio poc'anzi? No, non l'ho sentito, la verità, perché stava parlando Claudio, non l'ho sentito. Ok, no, infatti sulla modulazione, per un attimo ho detto, mi sento o cosa del genere, dai, e dunque si è spostato. Va bene, va bene, continua così comunque, Chiodo, che stai andando bene, non c'è problema, io te l'ho detto già l'altro giorno, dopo un po' di tempo a questa parte, mi stai soddisfando con la radio come appunto arrivi qui da me, considerato che prima non ti sentivo proprio. Comunque stai uscendo bene, te lo ripeto ancora una volta. E non solo con questo baracchino, ma anche con altri baracchini che ho usato altri giorni fa, dai. Ok, riprendi Muros. No, ho chiesto a Claudio di Mulos. Attento, Mulos. Avete parlato in due, vai Natali per Mulos. Claudio, mi senti? Natalino sono. Era per un saluto, dai, rimango in ascolto, salutando tutta la ruota, dai, che sto facendo cosa qua. Io, visto che non riprende Spaziero, perché evidentemente è impegnato come in tutto questo periodo, in cucina probabilmente. Sì, Natalia, stai uscendo bene, qui da me io ti sento bene, la verità. Segnare non te ne do perché sto uscendo con l'HB23, per cui non è inutile che te lo dia, poi è talmente piccolo che non so nemmeno se è affidabile come il rollmetro. Però diciamo che dovrebbe essere intorno al 9, perlomeno tu mi stai arrivando più o meno così, 9, 9, 5 ultimamente. Avanti Natalia. No, volevo sapere solo se la radio si sentiva bene, basta. Questo è un altro microfono, non è l'MB+4, capito? La radio è buona, però c'è un leggero innesco, un leggerissimo innesco. Forse perché hai un altro baracchino acceso, prova a spegnere, non lo so, sarà quello. Però la radio è buona, è chiara. Adesso ho spento tutto, guarda un po', era troppo vicino all'apparato. Adesso va benissimo, adesso non c'è più rumore, va benissimo, così è perfetto. Questo fischia, se glielo metti vicino al microfono è logico che fischia. Certamente sì, ma lo fanno un po' tutti, si chiama effetto Larsen. Per cui lo sappiamo, no? Se c'è un altro baracchino, anche le cuffie, senza bisogno che ci sia il baracchino acceso, anche le cuffie vicino potrebbero dare fastidio per effetto dell'elettromagnetismo, del magnetismo che ha le cuffie, cioè degli altoparlantini. Bene, bene, vabbè, non c'è bisogno di insegnarti niente, già lo sai, dai. E a voglia ce lo sappiamo tutte quelle cose, noi siamo vecchi, è logico che lo sappiamo. Volevo sapere se era amplificata la radio, se sentiva un po' di amplificazione. Questo è un altro microfono, non è il coso, l'MB+4, ecco cosa ti volevo dire. La radio non è amplificatissima, però è molto piacevole da ascoltare perché è perfetta, per cui non è amplificatissima comunque, ma è chiarissima, intelligibile al 100%, veramente. E questo è uno di quelli grigi, è un Turner più 3 di quelli grigi, capito, però è basso, non l'ho alzato. Non... Va benissimo, la pulizia della modulazione è ultima, veramente, è ultimo. Come pulizia non c'è niente da dire, perfetto. Anch'io ce l'avrei uno di quelli, solo che me aveva abbandonato tempo fa e allora l'ho messo da parte e non l'ho più ripreso in mano. Magari se vi do una controllatina lo riattivo anche, perché sono sicuro di riuscire a metterlo a posto. Comunque, staremo a vedere, io intanto uso sempre questo, l'MB4, me lo passo da baracchino a baracchino con lo spezzone e non c'è problema, e non mi smentisce mai, la modulazione rimane sempre quella, qualsiasi radio che uso la modulazione rimane sempre quella. Va bene, vediamo se riprende Claudio, no, forse è ancora impegnato e dunque già rientra, già si fa sentire. Vediamo se riprende Claudio di Mulos, ma non ci sei Mulos? Giulio, sono impegnato, già torno subito, dillo anche a Claudio. Ok. Sì, ti ascolto benissimo, anche con questo ti ascolto bene, non c'è problema, Claudio. Avanti, adesso vediamo un po' come ti sente Natalino. Avanti Natalino, come l'hai sentito a Claudio da Muros? forse da Talino non può riprendere, Claudio, perché l'ho sentito bassissimo, l'ho sentito ma non ho capito quello che ha detto. Forse non può riprendere, già lo sappiamo qual è il suo problema. Riprendi ancora Muros? Superstar, questo microfono come va giù? È sempre bello, come pulizia di modulazione non c'è niente da dire, però non si sente molta amplificazione, però è superiore a un microfono normale come modulazione, non ci sono dubbi. Guarda, è così com'è. Ma non c'è stata una grande differenza, Natalì, non c'è una grande differenza. Diciamo, ripeto, quello che ti ho detto, mi hai capito quello che ti ho detto poc'anzi, per cui va bene, come modulazione va bene, però amplificazione non va proprio, è un po' più forte di un microfono normale. Ho capito. Vabbè, là. Vuol dire che sul Superstar non pompa molto. Però va benissimo, come chiarezza è perfetto, Natalì, non ti disperare perché è perfetto, come radio è perfetto, anche sul Superstar, perciò va bene così. Avanti Claudio di Muros. Di quei Turner più 3 grigi, Emmy. Ok. Sì, Claudio di Sassari si è un po' allontanato, si è allontanato, già riprende fra un po'. Sì, beh certo, no, non ve l'ho detto, per me va bene, è una bella modulazione, bella, pulita, senza nessun problema. Per cui un po' più forte del microfono normale senz'altro, però come chiarezza di voce a me piace, è perfetta. Bene, bene, avanti Natalia. Break. Un attimo il break. Ehi, vabbè, a me me l'hanno regalato questo, un amico, capito? Ok, magari avrà la batteria che non è buona, può essere che sia quello. C'è stato un break, avanti con la buonasera. Giulio Natalino e Claudio Ramuros. Buonasera, un abbraccio circolare a tutti, ben sentito Giulio, grazie per avermi fatto entrare. Saluto Natalino che un po' che non ascolto, un abbraccione da parte mia, Franco comunque. E saluto anche Claudio che, come al solito, lo ascolto un po' bassino, ma se non mi ascolta me lo salutate voi. Avanti Giulio, grazie ancora. Ciao Franco, ben entrato, è un piacere sempre di ascoltarti. Sì, adesso ti mando avanti Claudio da Muros, Claudio di Sassari è in stand-by al momento, riprenderà dopo. Avanti Claudio da Muros. Ho sempre avuto problemi a ascoltarti, sicuramente questa antenna è un po' più sorda in ricezione, magari perché sto usando sempre la solita canna da pesca, che insomma, mi dà anche parecchie soddisfazioni, però in ricezione sembra che perda un po' qualcosa, non lo so, magari è la posizione dell'antenna. Avanti Natalino. Ehi, come mi stai ascoltando, Fra? Una bomba, Natalino, invece facendo tutto. Addirittura si stava dicendo che amplifica poco questo microfono, è un Turner più 3 di quelli grigi questo. No, sento anche, guarda, il rumore di fondo amplifica bene e poi è molto... molto chiara, non toccare nulla, come si dice, puntella tutto, che andava. Ehi, ci ho messo l'attac, non tocco nulla, no. Questo è il Superstar 3009, quello omologato che ho, infatti non ha né canali, nulla. Come l'ho comprato l'ho lasciato, se no perde l'omologazione, capito? Per me, guarda, è ottima per la truppa, pensa anche per gli altri. Vero Giulio, confermi? Sì, ma io l'ho detto poc'anzi, io non la sento molto amplificata, però è di una chiarezza unica, è veramente perfetta, la modulazione è ottima, veramente. Del resto, quel tipo di microfono, sappiamo come modulano, non c'è niente da dire, praticamente sono i numeri uno, il Turner insieme allo Schule anche sono i numeri uno per la 27, per cui no, non c'è niente da dire. Anche vabbè, qui siamo un po' più lontano, Natalino purtroppo per la mia posizione non è in condizioni ottimali perché l'antenna è coperta, per cui però lo sento molto bene, radio 5 è molto molto chiara. E non bassa, sia ben chiaro, non ti sto dicendo che è bassa, no, assolutamente no. Ti sto dicendo solamente che non sento la solita amplificazione del Turner più 3, ecco, tutto lì. Bene, fra, io sto usando la KB23 con l'MB più 4. Ho voluto accendere questo stasera e dargli un po' di calore anche a questa radiolina. Va bene, vecchio vintage, niente di particolare, però ottima modulazione, così vi dico. Avanti ancora Franco e poi fai girare tu, vai. Break. Sì, registrato. No, va bene, per me puoi anche abbassare Giulio, sei fortissimo, sei super 5. Avanti break. Ehi, allora, buonasera a tutti, Gianni Doppio Rum. Oi, ciao Gianni, come va? Bene, bene, come sto arrivando di radio? Qui sei anche troppo forte, stai tendendo leggermente a saturare, però noi siamo vicini, chiedi qualche controllo tipo a muro. Sono rientrato, eh. Aspetta un attimo, Franco, guarda a vedere che ho cambiato la batteria, magari c'era la batteria scarica, perché me l'ha dato un amico oggi. Ah, va benissimo, la radio è ottima, non toccare niente. No, se è migliorato qualcosa volevo sapere perché c'era questa batteria, io ne ho messo un'altra. Vediamo un po'. No, va benissimo, non può migliorare perché è già ottima. Tranquillo. Sono rientrato. Gianni, se vuoi un controllo, meglio di così, penso non si possa uscire qua in lontano. Oh, Claudio. Sì, dimmi. Ma non è un controllo di radio? Super 5, segnale è il tuo e la radio è Super 5. Cappa, ho trovato il microfono. Bella radio, bella corposa, bella amplificata, bella, bella. Penso che gli altri siano d'accordo con me. Avanti Giulio. Sì, è buona radio Gianni. Cos'è, ti è arrivato quello che avevi ordinato da poco? Gianni, sparito. Avanti Franco. Sì, non ho capito che tipo di apparato stavo utilizzando, perché dal bip non è il suo solito. Comunque arriva qui, ormai siamo vicini, quindi arrivano troppo forti qua. I controlli ti chiedono un po' più lontano. Avanti Claudio. Claudio, intanto saluto Claudio Salviero. Torre di controllo. Rilancio Muros. Ascolta, guarda adesso come ti sta arrivando Claudio, che sto provando un apparecchio. No, rettifico. Fai due potenze Gianni. Era così e così. Già si vede, no? Forse Claudio, perché c'ha lo smitter che arriva sino a un certo punto, non se ne accorge. Allora qua col Galaxy fai 9 e 23 praticamente col tuo segnale e 9 e 30 col secondo passaggio. E io Claudio, così per curiosità, con questa KB23 come arrivo di segnale? Il radio già me l'hai detto tantissime volte, ma di segnale come arrivo? La radio è impressionante, non metto lingua perché penso che più di così non si possa ottenere da un baracchino di 30 anni, 40 anni. di quelle dimensioni soprattutto. Il segnale tuo è 9 più 15. Ok, visto, caspita, con pochissime watt va più che bene. D'altronde, ripetiamo quello che abbiamo detto poc'anzi, i baracchini vintage non si smentiscono mai. Avanti Franco, poi fai girare per Natalino, che lo abbiamo un po' trascurato, vai. Sì, grazie. No, arrivi bene qua Natalino. Giulio, poi hai dei picchi di modulazione molto molto ampi, molto belli, sì. Avanti Natalino. Eia, anda bene Meda. Adesso l'ho messo a metà, Va bene Natalino, va bene. Gianni, se vuoi dei controlli ci spostiamo di canale, non c'è problema. Intanto rilancio a Claudio di Muros, vai Muros. Claudio, va bene, metti pure l'altro e proviamo, così facciamo la comparazione con questo, visto e considerato che sono uguali come corso. Va benissimo, avanti Natali. E siamo qua. Oh yeah. Qua ci sono, salute. Oh, stavo parlando con mia moglie. Fai bene. Però già lo sai, c'è il mattarello lì, conservato nel cassetto del tavolo. Avanti Claudio Sassari. Ciao. Non scelto sempre, lasciamo sempre un attimo di bianco, insomma che qualcuno voglia entrare. Ribadisco per Gianni. Ciao Franco, scusa, è un po' rincoglionito stasera. Insomma, vai, vieni qua che purtroppo la signora è ancora così e quindi mi devo muovere, cioè avrò roba al fuoco. Ribadisco sempre per Gianni, se necessità di qualche controllo più dettagliato ci spostiamo di canale, non c'è problema. Vediamo se vuole riprendere, se non riprendi tu fra. Sì, no, non c'è problema, anche tutti i controlli sono ben accetti, dai. Aiuti ci danno da una parte e un po' dall'altra, aiutiamo. No, qualche giorno provo anch'io, però mi serve uno spezzone per fare le modifiche. Cioè senza toccare il microfono, provare questo Shure nel valvolare, Claudio. Sì, guarda, no, non dirlo a me o questi spezzoni, perché a me la verità me li hanno fatti tutti, devo essere sincero. Io ormai non ho più di mistichezza a saldare e fare soprattutto i connettori. A me spezzoni, queste cose così, me le aveva fatte, non me ricordo, sinceramente. Non mi ricordo, poi i connettori dei microfoni fortunatamente quando li ho comprati erano tutti più o meno uguali, anche questo Turner più 3 e gli altri che ho cambiato il connettore me li ha fatti Luca, quindi però non è difficile, Giulio se li fa tutti lui, quindi ti può dare una dritta fra. No, negativo, no, riesco a farli, no, non c'è problema. Quello che gli ho collegato adesso è il microfono del Galaxy, però vorrei provare questo amplificato per vedere come rende. Mi sembra che una volta me l'hai accennato tu, che sicuramente dovrebbe uscire bene con questo microfono. Buonasera a tutti. Buonasera Tonino Kawasaki. Sì, beh io sto usando il Saturn Echo col Turner più 3B, quindi dovresti avere ottimi risultati con quel microfono preamplificato. Allora faccio entrare buonasera, dovrebbe essere Tonino Kawasaki, quindi Claudio Sparviero, Claudio Damuros, Giulio Dollaro, Natalino Alfa 1, Franco e poi c'è Gianni un attimo in Corrix. A te il cambio, vai per chi vuoi. Sono tuoi circolari. Niente, vi siete soprammovolati, non so con chi, però sento solo te Claudio, lo sento un fischio sottofondo. Non lo so se c'è qualcuno che si è soprammodulato con me, chiedo scusa. Avanti Giulio, a te il cambio, fai girare. Probabilmente noi due ci siamo soprammodulati. Ciao Tonino, avanti, riprendi, fatti sentire più sveglio, perché mi sembri un pochino così, non molto di buon umore stasera. No, dopo quello che ho passato, cioè, non ho capito. Non è che sono stato operato da molto, quindi ancora un po' di dolorini ci sono, tutto qua. Ti sei detto Gianni? Boh, avanti Gianni. È sparito, ti lancio allora Franco, la Sassari, avanti Franco. Capa, ciao Tonino, mi ascolti? E capo sei trasporto, abbastanza forte e chiaro. Capo, no, ti ho lasciato qualche mese fa. Quella roba poi l'avevi fatta, sì, tutto a posto? Sì, e beh, tanto ce l'ho fatta. È una prossima gara. Anzi, dovevate andare in due se non sbaglio, tu e con Fia, non mi ricordo, un parente tuo forse. Sì, mio figlio ci ha fatto anche lui. Lui è durato un po' di più perché era più complicata la questione. Tutto qui comunque, vai, piano piano, giustamente non possiamo pretendere molto. Comunque, piano piano si va avanti. Dai, non vuoi ricordare che via te lo stavo dimenticando. Vabbè, anche quello è un passaggio, dai. Piano piano, poi un passo alla volta si va avanti. Avanti di muro. Rilanciatelo voi, forse non mi sente. Claudio, riprendi? No, ora sta cambiando baracchino di nuovo, dai. Cambio per Giulio per i saluti a Tonino, vai. Sì, l'ho già salutato Tonino, ciao Tonino. Anzi, diciamo che l'ho anche un po'... lo stavo un pochino sfottendo così, con una voce un po' benevola, dai, ciao Tonino. No, non è quello che volevo dire. Casomai rilancio Natalino, così saluta Natalino anche. Avanti Natalino per Tonino. Nemmeno Natalino, non ti vuole sentire, oh Tonino, non ti vuole salutare Tonino. Non c'è niente da fare, riprendi. Sapessi quanto mi dispiace a me. Caspita, stavolta non dormo, Caspita. A proposito, come sei tu l'hai già detto, non c'è problema, non per ricordartelo, ma Emanuele come sta? Beh, meglio, dai, diciamo. C'è anche lui un po' di dolorini perché lui ha subito 3 tagli, non uno solo, capito? Gli hanno messo la placca titanica con le viti e la gabbietta a fianco, quindi ha avuto un'operazione con 4 ore sotto i ferri, quindi non ho capito che. Mentre allora per me, credo. Siamo stati bene fuori, ci hanno veramente accolto abbastanza bene con l'ospedale privato. Posso dirti che, non lo so, è enorme. Per il mio nome è poco, lo stanno anche ampliando ancora di più. C'è tutto, da A alla Z. Negozi di tutto c'è, manca solo il ristorante, guarda, che poi non c'è problema. Tu chiami dalla camera e ti portano tutto in camera. Ok, Tony, è meglio così, dai. È meglio così, quando si sentono queste cose, che la sanità funziona almeno in certi posti, va bene così, non c'è problema. Domani sono di turno io, dai, domani devo fare un controllo io. Avanti Franco. E allora, in bocca al lupo anche a te Giulio. Torino, dove eri? A Monza, Tony? No, negativo, ero a Lugo, provincia di Ravenna. Va bene, ci sono stato qualche anno fa, forse una 40 anni fa a Ravenna. Quella zona di Ravenna, Rimini, San Marino, un bel giro avevamo fatto. Sì, bei posti, Tony. Ma io ci ho anche lavorato a Ravenna più di 30 anni fa anch'io, quindi. No, questo è Lugo, che sarebbe quasi 50 km da Ravenna. Un ospedale privato e bello, Maria Cecilia Hospital. Se vuoi guardare su Google, vedi che adesso l'ospedale è. Poi sono soddisfatto, contento per come ci hanno trattato lì all'ospedale. Poi eravamo tutti e due nella stessa camera, bestiale, con doccia in camera. Avanti, Sparviero, Claudio. Un secondo, Tony, arrivo subito, riprendi e fai girare, che mi hai chiamato mio amore. Ok, d'accordo, bene, bene. Tutto qui, ok, Giulio, riprendi, visto che siamo in tre, tu. Claudio con X, l'altro Claudio non risponde, sta attaccando Valentino, cosa sta facendo? Gianni non c'è, ok, Franco, Giulio e io, per adesso. Avanti Giulio. Ok, riprendo io allora. Sì, sì, beh certo, si sono assentati un po', evidentemente hanno cose da fare, Gianni lo stesso si è assentato, Muro non riprende, e Natalino lo stesso non ha ripreso. Lasciamoci un po' di tempo, vediamo un po' se riprende Muros, intanto che stava cambiando baracchino, vediamo cosa ci fa sentire questa volta. Attento Claudio, sono Claudio di Muros, ci sì? No, non riprende. Riprende Fra, siamo rimasti io, tu e Tonino al momento, e Claudio sempre in stand by, Claudio e Sassari, gli altri non so se rientrano, dai, avanti Franco. Sì, sì, lasciamo un po' di bianco ogni tanto. Natalino, chi sei Natalino? Quando ci sono io non entro lui, lo sai. Così, no, non lo sapevo, questa mia nuova. Non conosco le telenovela della frequenza, quindi non penso che tu stia scherzando. Dicevo, sì, comunque in Italia sì, non è che vada tutto male. Certo, qua sembrano in ospedale che ti stanno facendo una cortesia, un favore loro, Sì, ma anche la mia dottoressa è fatta, perché non ti ho preso in Sardegna, lascia perdere. E mio cugino l'hanno rovinato qua a Sassari e Cagliari, poi è andato a Monza, e grazie a Dio l'hanno, dice, ma chi è che l'ha macellato così? Questi lavori si usavano 50 anni fa, e ho tagliato un pezzo di osso sotto, e ho messo la placca a titanio, poi vediamo quanto ne ha passato. Niente, ho sempre detto che andavo fuori, poi neanche a fare apposta, questo dottore ha operato anche il mio collega, e tantissima gente che ho conosciuto, sì che lo conoscono, e ti posso dire una cosa, sono andato a Picchiusi. Ho fatto la visita con lui, mi ha organizzato tutto lui, il giorno a cui devo presentarmi per le visite e poi per ricoverarmi e poi per l'operazione, quindi sono soddisfatto veramente. Purtroppo qui siamo un po' messi male, anche ho un collega che ha fatto la ricostruzione di tutto l'orecchio interno, non mi ricordo come si chiami quell'intervento cocleare se non sbaglio, cioè gli hanno ricostruito in cudine, staffa e martello tutto con innesti naturali e cose assurde che sono a pensarci, l'hanno aperto come un porcetto poverino, tutto l'orecchio è staccato che lavorano poi da dietro l'orecchio, però ha un orecchio riuscito a recuperare qualcosa, adesso sente benino, grazie a Dio. Adesso dovrebbe fare l'altro, ma non sono passeggiate, sono operazioni che ti segnano un po', e sono anche rischiose. Avanti Giulio. Ok, certo, non è certo piacevole una situazione del genere, ma di nessun tipo però, per cui, no, io devo dire la verità, quando ero io ricoverato in ospedale, perlomeno nel reparto dove ero io, devo dire che erano abbastanza gentili, abbastanza insomma interessati se vogliamo, per cui non ho niente da dire, perché sento tanta gente, la sanità dice non funziona, la sanità così, la sanità qua, ripeto, io in quel reparto dove ero io erano tutti uno più bravo dell'altro, dai medici agli infermieri eccetera eccetera, hanno un trattamento particolare per i pazienti, per cui non mi posso lamentare, dai, non mi posso assolutamente lamentare, poi negli altri reparti non te lo so dire. Va bene, avanti Tony. Gappa, io ero ricoverato qua a Sassari, primo piano reparto cardiologia, posso dirti idem, veramente bravissimi, più che bravissimi, più bravi ancora, non posso dire niente, tutti quanti che sanno il loro mestiere, altri reparti non lo so, sento dire tante voci in corridoio, una parte all'altra, però io dove ero ricoverato io stavo bene, quindi sempre addosso a me. Quindi anche lì a Lugo, provincia di Ravenna, uguale, mattina e sera, sempre, ci hanno controllato da capo a piedi prima di farci l'operazione, figurati un po'. E poi la trattatura che hanno, spaventosa, molta roba, cosa che qua non è che l'abbiamo visto tanto, più di tanto, comunque. Niente, se vogliamo cambiare il discorso, sono sempre operazioni che... Bisogna stare attenti, anche la spina dorsale, secondo chi l'ha fatta rimane stupido, lo sappiamo. Ok, avanti fra. Sì, queste sono più che delicate, quando sfiori il sistema nervoso centrale sono dolori, basta un piccolo errore, ti scappa qualcosa e ti lasciano a piedi per tutta la vita. Comunque dai, parliamo di cose, come diceva un mio amico, parliamo di donne, sorelle ne hai, diceva. Avanti Giulio. Ok, beh.